La zanzara extra. Fermi tutti, grande ritorno! Il brasiliano! Corona, c'avete solo il corona! Oltre la nebbia, c'avete solo il corona! Ma questo non è carino da dire, però. Ma che sei ma... Questo no, non, ma è insomma... bello. Questo... non è ma bello. Ma non se lo dico. Manca benzina. Ma no. Ma sei impazzito. Questo è pazzo. Ma sono morte migliaia di persone. No, adesso, che... vai, Brasile, non si può fare. È Brasile. È impazzito. Il coro sui morti. Bianco, ma adesso, invece di fare il moralista, prendeme qualche sotto questo bianco rovinato. Ma che succede? Aspetta, Brasile, calma, io voglio capire come una cosa. Innanzitutto intanto, mi sembrava su una strada di recupero, la prima cosa che hai detto qua, solo il corona, che sei pazzo. Una cosa pazzesca. No, perché tu hai detto che sei per colpa della Lombardia. Sennò l'Italia stava bene, allora ti ho cantato tu. Non è per colpa, sei un cattivo maestro, sei. Vedi, lui ha travisato quello che tu hai detto. E il Brasile ha trasformato. Voleva esordire con una canzone di Mila, cioè? Salite. E invece ho esordito che sono il corona. Cioè avete senti, il che corona. Libri stai leggendo in questa bella adesso, quarantena, caro Brasile? Dimmi. Di Osho. Un libro di? Di Osho. Di Osho. Osho per Osho. No, davvero. Ma che libro è? Che libro è quello? Scusami, innanzitutto voglio capire una cosa. Il brasiliano... Bene, amico Davide, mio, molto Davide. Bene. David, sta bene pure lui? Sì. Sta a Roma. Nel... Gottardo, sta bene. Gottardo, sì, eccolo, se la cava, sì. Padova. Amico, ma allora, hai avuto i 600 euro, Brasile, di fondo io? Del governo? Lo hai chiesto. Io sono pure invalido, amico mio. E a me mi aspettano da avere... Io sono invalido, no? Sì, io dovrei prendere insomma, non è che sei invalido. Io devo prendere pure la pensione. Okay, ma non sei invalido, amico mio. La pensione. Io ho buone mani, amico mio. A me non mi servono le seriose del governo. Sì, ma ho capito, ma hai fatto la richiesta, no? Ma quale richiesta? Che fai? C'è richieste per 600 euro, secondo te? No, amico mio, a te che cazzo mi stai sottovalutando? No, per carità. Quanti li fai tu 600 euro? In quanto tempo? Nei tempi d'oro, in quanto li facevi? Spendiamo una sera. Siamo 5 gradi, sono finiti, Ma io voglio capire una cosa, ma tu che comunque ancora, nonostante il fatto che sicuramente non sarà cambiato niente e non ti sei fatto niente in quest'ultimo periodo, immagino, niente, no? Ma io sei sto pulito. Più, ma adesso scherzo. Sei pulito, però le piazze di spaccio le conosci bene, le piazze di spaccio. Sì, eccomero. Allora, fammi pure loro. Ma che sta succedendo, appunto? Che succede lì nelle piazze di spaccio? Come si spaccia oggi a Roma? Questo è interessante. No, ma sapete che stanno facendo... Io ho sentito qualche giorno, qualche amichetto mio che appunto così... stanno a fare fame pure loro, fratello. Cioè? Stanno a fare fame pure loro perché ci stanno i controlli a rotta di collo. La te ferma la mattina, la sera, il pomeriggio e la notte. Ma come quindi fanno a far arrivare la merce? Cioè, non è che la gente sta tutta a rota, qualcuno ci sarà che. Qualcuno ci sta fiero, vabbè, quelli sono quelli. Io li chiamo gli infermabili, quelli sono camicianze, ni fermi nemmeno, li può fermare quanto te pare, quelli ci stanno a rota, scendono e vanno a acquistare. Però è molto difficile. Ma dove si incontrano? Difficile. Dove si incontrano? No, non lo so, questo ma che mi chiedi i posti, Giuseppe? No, che... dove? Nel senso, nei supermercati, nelle cose. No, quali supermercati? Sempre nei luoghi dove stanno loro. Però ovviamente è molto molto ridotta la situazione, capito? Dunque io ho saputo di gente in casa che sta uscita matto, cioè gente che. E poi diventerà, appena finirà tutto, aumenteranno i reati, e tu dice il brasiliano questo. Cioè? I rapine, il spaccio, tutto aumenterà. Perché? Perché la gente è licenziata, a me mi scrivono molti ragazzi giovani, mi dice il brasiliano, ma che cazzo lo metto a fare? E fanno a fare rapine, io gli dico, ma quale rapine, amico mio? Fanno appena come la roba. Ti scrivono? Certo. Scrivono in privato al brasiliano. Scrivono in privato. C'è sta gente che c'ha moglie e bambini che sono stati licenziati e non riescono a trovare lavoro. Quello mi ha detto, Brasile, io sono buono a Venezolano, ma che mi metto a famo? Io se sta amico mio, a me muori. Beh, ho capito, ma era un criminale prima e un criminale oggi, però non è che... no, ho capito, ma era un criminale prima ed è un criminale oggi, scusa. No, ma questo è il problema, diventerà un problema dello Stato cioè, italiano. Tu dici da esperto della materia che anche quelli che non facevano i criminali prima si mettono, improvvisano. Dopo dici certo. Senza una lira aumenteranno spaccio, criminalità. Fra due mesi ci sarà il saccheggio ai supermercati. No, ma speriamo di no. Scusa, sì, ma come stai trascorrendo questa quarantena, diciamo, forzata? Sto trascorrendo molto tranquillo, mangio, dormo, poi faccio le pippe a rotta di collo. Questo è interessante, ma non stai a casa con qualcuna, no? No, io sono sposato, io sto calice. Io sto qua lì, città mia, oh. Ma, no, che sta, no, no. Ma che sta accanto insieme a te? Dunque, quando te no, fai? No, lei vive a casa sua, però ogni tanto ci vediamo qualche fine settimana. E come fai a vederti? Non, ma si, non può si può, fare. Ma non si può. Un amico mio, prendo l'NCC e vado. L'NCC? Questo è stupendo. Ma quella NCC? Manco funziona l'NCC. Come no, se ti fermi, no, funziona, no, la polizia. Funzionano, funzionano. No, funziona. Ma che gli dici alla polizia se ti fermano? Scusa, che ti dici? Ma non avvi, papà Paparetto. Ma che si ferma, dai. Ma tipo, ma come fai a fermarlo, papare? No, bravo. Ma come no, fai no, no, no, non ha ragione. Vai con Dio, vai, vai, vai, ma poi di che stai a parlare? Nel CC sono come taxi, no? Tu prendi nel CC, vai là e stai dicendo... Faccio 3-4 giorni con mia moglie e poi ognuno a casa sua. Ma capito? Ma in teoria non si potrebbe, non hai paura del coronavirus? Non si potrebbe fare, sti cazzi, a qualche piede. Ma le mascherine, ce l'hai? La mascherina da mettere. Per nato d'acqua, c'ho pure il tubo che hai, Deo. La macchina è il tubo, mai messa la mascherina. E i guanti? La mascherina, parecchio, ma uno come il brasiliano si può mettere la mascherina. Ma scusa, ma faccio per la sua salute, sì. Ma me il virus, ma quando mi attaccava adesso? Mi sono pippato 10 grammi al giorno, l'acqua da ipossanghere mi bevevo. Ma me posso attaccare il virus? Ma è sì, bravo, papà adesso. Mi bevevo l'acqua da ipossanghere, io, papà adesso. Io mica sono nato come te, nella bambaggia, Vabbè, io cagavo a te, mi ricagavo, papà adesso. No, devo dire la verità. Ti posso consigliare però, Brasile, una cosa? E poi ci vedremo appena finisce tutto questo. Noi abbiamo un impegno di vederci e ci vedremo di persona per una cosa che dobbiamo fare insieme. Ma posso consigliarti di leggere? No, fare una cosa insieme. Vabbè, allora... La peste di Camus. Perché non te lo... Non... Come? Ma, no, un libro. No, ti vuole consegnare peste, un libro. La peste di Camus. La peste di Camus. Sai chi è Camus? Camus, fermati. Ma come si scrive Camus innanzitutto? Camus, scritto Camus. Camus. Va bene, ma perché la peste è proprio a me? No, guarda, è una rottura di cazzo. No, non capito, però è un libro anche adatto un po' al momento. Ti passo io. Ti mando io una copia delle ore che mi stanno mandando. Vecchio. È quello che ci vuole. Vecchio numero. Avevamo solo quello. Avevamo solo le ore. In carcere solo quello c'avevate. Certo. Ma spiegami una cosa, scusa, ma tu comunque allora fai questo tipo di vita qua, ma fa la spesa, ci vai o no? No, che ci vado, è certo che ci vado, ovviamente sì. E come ci vai? Senza niente? Lì ti devi mettere la mascherina. Ma no, la mascherina non me la metto, Giuseppe, sì, bravo, facci i guanti. No, ma lì faccio la spesa e ritorno a casa. Cioè, tu dici, vederti con la mascherina ti fa schifo, questa è la cosa. Ma perdo i punti, perdo, quando cazzo vado con la mascherina, Giuseppe, ma sì, bravo, dai. Capito, però... dai, non manco. Comunque la cosa che a lui non può prendere il coronavirus, il tuo papà, scusa, è il tuo non papà può come stai? Non può piare. Ma dov'è il tuo papà? A casa adesso o in carcere? Mio papà sta a casa, diciamo, poverino, anzi lo saluto che ci sta sentendo, sì. Si sta facendo, sì, la chemio. Sì, si sta facendo la poveretto. Alla chemio. Adesso sta fino a maggio stare, sì, papà, poi ha finito tutto. Ah, come stai? Però devi stare a casa, stai domiciliari. È uscito perché c'era il tumore, no, fratellino? Allora è uscito, ti credo, ma certo. Dove quello dici? È giusto, capito? Che sia uscito. Ma per che forza. Stai scherzando? Dai, innocente, 10 anni di branda. Vabbè, dai, innocente, non lo so, però è giusto che uno malato di tumore stia fuori dal carcere, è giusto. Però scusami un attimo, allora tu, la tua giornata è questa, Pippe, fondamentalmente Pippe. Allora, io mi alzo la mattina, colazione. Sì, sì. Pippa. Sì, classico. Mi rimetto a dormire. Sì, benissimo. Come dormire, subito? Mi rimetto a dormire subito, sì, perché io diciamo poi, che cazzo ti rimetti a dormire? Mi sveglio alle 6:30-7, faccio colazione, sì, con un po' di riso e uova sode, sì, pippa, sì, pippa con X videos, mi, sì, rimetto a dormire. X videos, poi? Poi mi risveglio, sì, mi risveglio, faccio qualche mezz'oretta di flessioni addominali, affondi, camminati per casa. Sì, sì, sì. Poi mi sento con Alice, videochiamate insieme a mia moglie, a Cucù. E poi faccio un po' di dirette e quant'altro, ma il tempo lo passo con molta... Io mi sono fatto un anno da arresti domiciliari, Giuseppe. Io tre mesi mi faccio al bagno chiuso, Giuseppe. Capito? Io mi faccio al bagno chiuso tre mesi, fratelli. Qua l'alta del cesto mi faccio. Ciao, Brasile, ti abbraccio, a presto. Ma papà, te voglio bene, riportarci qua. A presto, ciao.

Cioè, ho voluto fare un piccolo esperimento, no? Cioè, come funziona questo mondo? Cioè, te fottono i soldi, in che modo te li prendono, ti turrupinano, che fanno? Cioè, ti prendono per il culo. Uno chiama, uno per telefono, un numero qualsiasi che prendi su internet. Mago, in questo caso, maestro Ruggero, sensitivo, medium, cartomante, chiromante, astrologo, 40 anni di esperienza, conosciuto in tutto il mondo, ritualistica di qualsiasi tipo, magia bianca, nera, gialla, rossa, unisce la persona amata in soli 4 giorni. Unisce la persona amata in soli 4 giorni. Prepara potentissimi talismani personalizzati, protezione a vita. Maestro Ruggero, parapsicologo, il più dotato veggente del mondo, addirittura pranoterapeuta, competenza integrativa e non sostitutiva dei metodi razionali nel risolvere determinate patologie. Maestro Ruggero elimina malocchio, fatture, vede e distrugge qualsiasi negatività. Letture ed analisi tramite carte con visione di passato, presente e futuro, in amore, affari, studio, famiglia. E soprattutto favorisce rotture con recupero della persona amata con potenti legamenti d'amore ritualizzati. Il maestro Ruggero. Pardon? Maestro? Sì, chi parla? Buonasera, sono Giuliano. Mi dica. Pronto, buonasera, buonasera, mi scusi. La disturbo? Mi dica, di che? No, no. Sto cercando aiuto per un problema importante di amore che ho. Mi dica. Posso parlare chiaramente? Sì, certo. Beh, quanto mi costa, maestro, mi scusi? La prima domanda è gratuita, mi dica il problema. Ma il problema è, ho tradito una persona. Questa persona è venuta a scoprire tutto. E adesso faccio una fatica enorme a riprendere in mano la situazione, capito? Lei è sempre innamorato di questa donna? No, è un uomo. Ah, un uomo. Vabbè, non cambia, credo, no? No, lei quanti anni ha? Io ho 45. Come si chiama? Franco. E lui? Lui si chiama Giovanni. Quanti anni ha? 48. E la linea di maggiore caso, secondo. Maestro. Maestro. Maestro. Maestro. Pronto? Maestro. Qui io vedo molto negativo. Come mai vede negativo, maestro? Perché lui si sta allontanando sempre di più. Io la potrei aiutare facendo un rituale. Come ha fatto a vederlo? Scusi, le carte, no? Ho messo giù le carte. Maestro, ma è sicuro? Sì. Scusa, Davide, adesso mandiamo la seconda parte, no? Sì. Io dico una cosa, Cristo, gli ho detto 45 anni, quanti ne ha lui? 48, solo i nomi, gli ho detto pure sbagliato perché gli avevo detto carte, il primo nome Giuliano, poi mi sono sbagliato, ho detto Franco, il secondo. Sì. Ti giuro, guarda, carte, non era tagliata, ci ha messo 15 secondi. 15 secondi, ha fatto le carte in 15 secondi questo qua. Ha capito tutto, già tutto ha capito. Il maestro Ruggero. Maestro, certo. Il maestro Ruggero, capito? Ma Maurizio Ruggero, no? No, non è Maurizio Ruggero, sì, maestro Ruggero. Però. Allora, già mi ha dato un verdetto il maestro Ruggero. Maestro Ruggero ha detto, beh, vi state allontanando. Il maestro Ruggero ha dato il suo verdetto. Io e, come cazzo si chiamava quell'altro gay, Giovanni e Giovanni siamo lontani perché l'ho tradito, ha fatto le carte, maestro Ruggero. Pronto? Maestro, scusi, è caduta la linea, scusi. Ti ho spiegato, posso fare un rituale particolare per farlo avvicinare, se no non si fa niente, vedo che si allontana, lo perde del tutto. E come funziona questo, che tipo di rituale, scusi? Per avvicinamento e legamento d'amore tra lei e lui. Quanto dura tutta questa procedura? Io di 4 a 7 giorni lo faccio tornare. E quanto mi costa, scusi maestro? Se sui 1200 euro. Cioè 1200 o se ottengo il risultato o comunque? Non mi deve pagare, se no, io devo comprare il materiale, devo comprare tutto. E se poi non torna? È impossibile, io quando faccio un lavoro lo porto a termine. Che tipo di rituale è? Che tipo di rituale? Legamento d'amore è magia rossa, no? Mi spieghi bene, perché io ci tengo veramente a questa persona. Magia rossa è una magia per avvicinare, una magia per legare le persone. Sì. 1200. Sì, il risultato è sicuro, lei mi dice è sicuro il risultato. Ti do la garanzia al 100%. 100%. 100%. Se lei si rivolge ad altri maghi, spendi di più, spendi di meno, non retterà mai niente. Queste cose qua sappiamo fare pochi in Italia e nel mondo. Non tutti sanno fare. No, beh, certo, ma è pericoloso questo rituale. Perché è pericoloso? No, non lo so, non lo conosco. La persona si lega a lei e basta. Sì, ma c'è bisogno della presenza, c'è bisogno della presenza di chi? Mia. Basta che lei mi manda via WhatsApp fotografie che vede il viso di lei e di lui. Sì, no, ma voglio capire, c'è bisogno poi per il rituale della presenza fisica? No, mi interessano le fotografie su WhatsApp. Ah, le foto, foto, anche i numeri di telefono, no? No, la data di nascita, nome e cognome, nome di battesimo e le foto. E le foto, e lei fa questo rituale? Sì. Che cazzate che ho fatto? Ho fatto delle cazzate con questa persona. Ha visto bene le carte? Se non si fa nessun intervento, vedo che si allontana e lo perde. Si allontana. Che... Le carte sono negative. Negative, negative. Allora, lei, io gli mando il messaggio. Sì. Suo numero di cellulare. Sì. Metto numero di Postepay. Sì. Codice fiscale, foglio Ruggero. Mi deve dare il numero di cellulare suo. Sì. Per mandargli il messaggio. 393? 393. 71, 71. 71, 71. 701. Sì, come si chiama, signor? Franco D'Alberti. Franco D'Alberti. Mettiamo che però dopo questo rituale no, lui non torni. Che succede? È impossibile. È impossibile. È impossibile. Io do la garanzia al 100%. Ma come si interviene sulla cioè in che modo? Cioè lui si convince attraverso dei suoi rituali? In che modo? Cioè, per capire, non è che mi si rincoglionisce questo qua. No, no, lì deve. Come faccio a lavorare? Sono segreti professionali che non arriverò nessuno. Ma no, vabbè, ma non è... essere voi a fare il mio lavoro, devo sapere come lavoro. No, come sapere per sapere che tipo di rituali. Scusi, sempre 1200 euro. Rituale di magia rossa. Poi come faccio a fare il rituale? Non posso spiegarglielo in quattro parole come faccio. Devo stare qua a parlarci una giornata intera. Della magia rossa, dice. La magia rossa. I rituali, non tutti sono capaci di farli. Bisogna avere un cervello particolare che non tutti c'hanno. Molti dicono sanno fare, invece non è vero. Io ho 40 anni di lavoro, è una cosa diversa dalle ipotesi o dalle cose che si vedono, è una cosa molto più seria. Ma certo. O si fida o non si fida. Se lei va da altri maghi, spende soldi, certo. Non ottenerà, non ottiene, siamo in pochi in Italia che sappiamo fare certe cose. Bisogna avere un cervello particolare. E lei che cervello ha? Se no, non. Il cervello della persona che sa fare queste cose qua. Va bene, grazie maestro, grazie. Mi mandi il messaggio, maestro. Va bene. Mi raccomando. Mi mandi il messaggio, la prego. Va bene. Ciao, arrivederci. Sì, io vedo molto negativo. Chiamiamolo, chiamiamolo, vai subito all'attacco, sì, subito all'attacco, io subito all'attacco. Sì, esatto. Vado subito all'attacco. Vai subito all'attacco. Vedo subito. Molto negativo anch'io. Pronto? Sì, pronto, sono Marco, salve. Ho un problema. Sì. Mi dica. Vedo tutto molto negativo. Allora? Ho un problema al lavoro, molto negativo, come posso fare? Ma lei lavora adesso o non lavora? No, lavoro, però ho dei problemi, qui ho paura che mi caccino, non... Come posso fare? Dove lavora lei? Io? Lavoro al supermarket. Nella zona di Milano, nell'Interland di Milano, a Cascina Gobba. E ho problemi col titolare, mi hanno detto di chiamare lei perché può aiutare. Mi batte anche il cuore forte. Perché ti batte il cuore? Mi hai capito? Qual è il motivo? Perché ho paura di perdere il lavoro, non so cosa fare. Lì devo esaminare il caso. Bisogna fare un rituale particolare per far sì che non ti... Un rituale particolare? Bisogna fare dei rituali per far sì che non ti cacciano. Bisogna fare dei lavori particolari. Senta, io ho un rituale particolare che si chiama GDF. Sono secretinato. Sarebbe guardia di finanza, amico mio. Sarebbe il rituale guardia di finanza. Che cazzo è il rituale che fai senza chiedere la ricevuta? Che roba è che fai le carte e fai il rituale? Telefona ad altri maghi, ti rispondono come me. Siamo casino in Italia. Quale rituale? Che prima ti ha chiamato il mio amico lì, Franco, che aveva un problema d'amore, gli hai detto cornuto. Sì, io vedo molto negativo. Anch'io. come ha fatto a vederlo? Ma è... scusi, le carte, no? Ho messo giù le carte. Fanculo, tu le carte e il rituale, vedo molto negativo anch'io, vedo. Io lo vedo, richiamalo un attimo, che non si chiude il telefono in faccia alle persone. Sì, io vedo molto negativo. No, io vedo la tua situazione molto negativa, la tua situazione la vedo negativa. Richiamalo un po' questo. Aspetta, aspetta. Vedo molto negativo, Digga. Pronto? Vedo una situazione molto negativa perché non si sbatte il telefono in faccia alle persone, mago. Senti, rivolgiti un altro mago, mi fai perdere solo tempo. Senti, solo... mago, non si... Mago? Mago? Faccio una magia e ti vado a fare il culo in 40 secondi, perché qui la questione è molto semplice. Non si illudono le persone, capito? Sì, vallo a dire Gino Paoli che magari ti dà la risposta. Gino Paoli. Aspetta, vai che ti lì, passo, ti passo Gino Franco, Paolo. Ti passo Franco un attimo. Oh, senti, non mi disturbare, cerca altre persone. Mago, Ruggero, Ruggero. No, ma la cosa incredibile a me è che uno passa in tre secondi dalle carte, ho letto le carte. Beh, vi allontanate. 1200 euro, fammi 1200 euro. Vedo molto negativo. Sì, io vedo molto negativo. Sì, no, io vedo negativa la tua situazione, caro amico mio. Molto negativa la vedo. D'accordo! D'accordo! Vergognatevi di dare... Scusa, ma nessuno è stato mai accusato... di consentire a questo pagliaccio televisivo barra radiofonico... Ma scusa, ma questa... ti costerà una querela. Sei un pagliaccio! Sei un pagliaccio! Infanghi la memoria delle persone! Ti devi solo... me ne fotto della tua querela! Ti devi vergognare per le cose che hai detto! Ma perché? Perché, Cruciani, se non gli dici... Ma perché? Si deve vergognare! Sei complice di questo opinione! Non è un'opinione, è immondizia, non gli puoi consentire questa immondizia. Andate a far culo, basta. Ma sì, ma io vai tu, me ne vado. Mi chiamate quando ha finito sto stronzo. Signore, e su questo ha ragione Meluzzi, che ha fatto un'affermazione chiara, inutile girarci intorno, Parenzo, ha detto una cosa chiara, non la mettere, non la buttare in cacciata. No, ma non la girate, detto, fallo sentire insomma, tutto. Ma che tutto non è quello, vero. Punto, come ha non fatto è vero? Un ragionamento non di una... pure, ha fatto... hai detto che sei d'accordo. Assolutamente d'accordo, ha fatto allora un ragionamento molto più complesso delle stronzate che state che dicendo voi. Ha detto che è una malattia psichica. Non ha detto come questo, no. Ma cazzo, ha argomentato, ha fatto un ragionamento molto più complesso, lo giuro. Hai un problema clinico! Tu ce l'hai sicuramente! Non so che cazzo sei, se sovranista o qualcos'altro! Sei solo una macchietta televisiva ben pagata! Macchietta televisiva ben pagata! Ti querelo anche per questo! Ti querelo anche per questo! Ti querelo anche per questo! Ti querelo anche per questo! Perché non sei pagato? Non sei pagato? Non sei pagato? Perché non sei pagato? Tutti sono pagati, che c'è? Sei pagato o no? In Rai ci vado gratis perché è un servizio pubblico. Ma anche se avesse detto quello che voi avete ridotto all'osso in modo così, bastava guardare Meluzzi per capire che cos'è la malattia mentale del sovranismo. Bastava guardare Lupi. Ti querelo anche per questo. Ti querelo anche per questo. Macchietta ben pagata, mi onoro di non averti mai invitato in una mia trasmissione televisiva. Mi onoro di... La telefonata sarà registrata per garantire la qualità, il decoro e la correttezza dell'organizzazione e dei contenuti dei programmi di Radio 24. A Milano si darà lo l'esposizione universale del 2015 si farà. Sentite la gioia della sala, sentite la gioia dei delegati. In Francia e in Irlanda è stata un successo. La vendita al pubblico dei kit in euro è possibile oggi anche in Italia. 8 differenti pezzi, da un centesimo a 2 euro. Tutti i giorni a Radio 24 raccontiamo il mondo, approfondiamo le notizie, documentiamo i fatti, ma non solo. Da oltre 20 anni produciamo trasmissioni culturali e di servizio, trasmettiamo radio documentari e generiamo conoscenza. Cosa sono le isole? Lo scopriremo oggi, ma partiamo ovviamente dalle risposte che ci hanno dato i nostri giovani ascoltatori. Poteva in una trasmissione dedicata all'acqua mancare lui? Leonardo da Vinci. Winston Leonard Spencer Churchill nasce il 30 novembre 1874 a Woodstock. In queste settimane di emergenza rinnoviamo il nostro impegno e offriamo il nostro contributo al mondo della scuola. Radio 24 ha creato una sezione online dedicata al proprio archivio, a disposizione degli insegnanti e degli studenti per la didattica a distanza. Podcast di scienze, storia, geografia, letteratura da scaricare, da ascoltare e condividere, con interviste e approfondimenti di alcuni dei programmi storici di Radio 24. Si parte con le biografie del Novecento, le regioni d'Italia, la scienza dell'acqua. E in più, ogni settimana, su radio24.it, verranno aggiunti nuovi contenuti. Radio 24 per la scuola. La passione si sente. La zanzara. No, ma qui stiamo aspettando che parte uno e poi te faccio vedere, ce vado pure io, te dico la verità. Io ho detto adesso, a me mi piace fare queste cose, però dopo mi costringi però. Ma quando ho detto e di la scherzando, quando è l'ora ha alzato la mano? Quando ho detto andiamo a fare. Io, ma chiamami! Tu! Oh, sta scherzando fermo! Ti credo, accetta, basta che parta uno, poi partiamo tutti. Mamma mia, una roba incredibile. Ragazzi, però a proposito, stavo riflettendo su una questione molto semplice. Sì, un mese fa circa ero in radio a Roma per fare la nostra solita diretta prima perché di chiudere. Ricordare tutto, i tempi ante coronavirus, prima di Cristo e dopo questo, Cristo. Siccome parlavi di maghi, fino a un mese fa ero lì in diretta dagli studi. Poi c'è il lockdown, chiusura, vabbè, chi può, lavori da casa, eccetera. Come si è chiusa la mia partecipazione lì in diretta dagli studi di Radio 24? Con la col maleficio del Divino Otelma, il quale un mese fa aveva pronosticato la fine di tutto questo. Io credo che in un mese una sciagura più grande non potesse abbattersi sull'Italia. Cioè è successo di tutto, da quando quello ha fatto il suo maleficio, che io farei anche risentire, no? In cui lui fece quella roba, la candela accesa, è accaduto di tutto. Nel mondo si è diffuso come una macchia d'olio questo coronavirus da quando quello ha parlato. Tu lo sai che è stato multato, sì, è stato multato il divino è stato multato, sì insieme a Maurone da Mantova. Credo che abbiamo le conferme di Maurone da Mantova, no? Poi dopo divino Otelma multato. Divino Otelma multato. Ma perché, cosa faceva? Non lo so, era un posto dove non poteva stare, ci sono le immagini ovunque sui social. Che meraviglia, aspetta che l'hanno vista, lo vedremo subito. Lui sostiene controllo, non so se è stata poi emessa anche una sanzione nei confronti di lui, ma lui sosterrà. Chiamalo al volo che lo perculo un Saverio attimo. Da Teramo, vai, Saverio da Teramo. Otelma multato, bellissimo. Saverio, dimmi. È una vita che stiamo, finalmente posso parlare con te, sei forte, guarda. Dimmi, Saverio, tu che fai? Camionista, che fai? Io sono il camionista, quello che sta mandato là, voglio... A quel figlio di puttana che dice che prendiamo 5.000 euro al mese. Ma nessuno dice, l'ha detto uno en passant, così, cioè non è una roba normale, seria. Qualcuno lo dice, qualcuno lo sostiene, ma anche quella è una cazzata, amico mio. Saverio. Ma si può dire una cosa di questi? Io sono 35 anni che faccio tutte le notte. Si può dire una cazzata di questo? No, non si può dire, amico mio, non si può dire questo. Io sono 35 anni, tutte le notti faccio il corriere. Sì. Ma si è tappato il cervello, ma siamo venuti l'ipertensione, ma te lo dico in abruzzese, che tu mi capisci. Dillo, è venuto l'ipertensione, mi si è tappato il cervello, capisco tutto, non ti preoccupare, a parte che era comprensibile anche agli altri. Parenti non capisci niente, che ne va ben niente, tu sei forte. Dimmi una cosa, caro Saverio, ti metti un attimo, sei con l'auricolare, col via voce o stai parlando normalmente al cellulare? metto normalmente al cellulare, sto sotto carico. Sì, sotto carica, sì, ma mettitelo un po' vicino perché così sentiamo la tua voce squillante, il camionista. No, la voce squillante, mi sono fumato due pacchetti di sigarette, Cruciani, che vuoi sentire più la voce squillante? No, vedi che è bella forte la voce, ancora bella squillante. Due pacchetti ti sei fumato oggi? Due pacchetti, comunque sei amico simpatico, Cru. Sì, però amico mio, sapete, però, due pacchetti di sigarette non si può fare. Ti posso dire? Vabbè, ma due al giorno, dai. Ma no, due al giorno, dai, amico mio, due al giorno. Diglielo anche tu, Parenzo, che mi sembra che non sei nelle sue grazie. Ma diglielo anche te, che due pacchetti non va bene. A me sembra il modo migliore per finire dal creatore, però se lei vuole continuare. Beh, sì. Perché vuoi che gli fai primo tu, pareggio? No, io ho smesso di fumare qualche anno fa, ma voglio dire, lei continui pure. Io le consiglierei di fumarne semmai una, massimo due. Se lei, caro direttore, vuole continuare a fumarsi due pacchetti al giorno, secondo me, rebus sic stantibus, stando così le cose, lei può andare dritto dritto al creatore con le cose così come stanno. Io rimango qui in casa con la mia mascherina. Una piccola curiosità: lei ha delle simpatie per il signor Mussolini, caro Saverio, oppure no? Cioè per il signor Duce? No, Mussolini di destra e di sinistra. Quando uno fa una cosa per bene, o destra o sinistra, giusto, giusto, questo invece giusto. Parenzio, praticamente Parenzio, quando parla Salvini. Sì. Lo attacca sempre, qualsiasi cosa che fa, questo che non va bene. È un po' così. La realtà di Saverio, che vedi, ti ha subito identificato. Sei uno di quelli che quando parla Salvini non va mai bene niente, giusto, Saverio? O sì, capisco male. Dipende. Ma te va bene, mai niente te va bene. E dai, fallo parlare, su, lo stai interrompendo continuamente, Saverio. Ma lo sto interrompendo, ma Ma non me ne frega neanche niente. Ma perché non te ne frega niente? Scusa, è la gente normale che lavora. Posso dirti. Se tu oggi mi dicessi preferisci sentire il premier olandese o il ministro dell'economia Rutto in lingua originale per un'ora, oppure questo qua? Io ti dico, preferisco il ministro dell'economia olandese in lingua originale. Tu stai dicendo che Saverio è un imbecille, questo è il punto fondamentale. Non ho detto totale. Da pareggio, complimento, Cruciale. Però è anche simpatico. Questo è simpatico. Questo è il suo. Questo è il suo limite. È simpatico. Quello Cruciale, tu sei simpatico. E Cruciale, buon parente, lo fa pure perché lo deve fare per forza la trasmissione. No, è più simpatico Cruciale. Scusami, Saverio, Saverio, posso dirti una cosa? Oggi è uscita una notizia abbastanza strana, che c'è addirittura un'azienda, non so dove, un'università, che riesce a mandare le immagini quando uno va in bagno, piscia o caga al cesso, manda le immagini in tempo reale a un computer che analizza lo stato delle tue feci, lo stato della tua salute sostanzialmente. Ora a me questa cosa qua mi fa paura, mi fa terrore. Io immagino con due pacchetti di sigarette al giorno che cazzo deve uscire quando tu vai al cesso, una cosa terribile. Io avevo smesso, Cruciano, avevo preso la sigaretta elettronica. Sì, ma due, amico mio, due pacchetti, come fai dentro il camion con due pacchetti? Perché un pacchetto lo fumi di notte, Crucia, che cammino tutta la notte, dopo di giorno alzi, svegli e se ne va l'altro pacchetto. Senti, una puntatina ogni tanto, qualche mignotta la fai o no? No, io sono felicemente sposato, ho tre figli. Vedi, stranamente, cioè abbiamo un camionista che non è né puttaniere né fascista, incredibile. Cioè, no, incredibile. Ma i camionisti non sono puttaniere, Cruciale. Non esageriamo, sapete. Molti camionisti sono orgogliosamente puttanieri. Perché non sono sposati, fanno bene. Ma no, sono anche sposati, soprattutto sposati. Non mi dire che vede che la moglie fa la stessa cosa. Non mi dire, no, ma quello non credo. No, non mi dire che sei fedele, Saverio. Non mi dire che sei uno fedele a tua moglie. Però. Sono fedelissimo, scusa, perché una volta che si sposa, io domattina sto a casa. Non ho capito perché dovrei tradire mia moglie. Bello spaccato, vedi? Ma perché ogni spaccato, tanto magari ti capita la fregola che ti vuoi trombare qualcun'altra, no, Saverio? Scusami. E mi faccio una prugnetta, mi faccio Cruciale. Una prugnetta? Cosa fa, scusi? Una prugnetta. Una prugnetta, sì, che sarebbe buona. Contento, Parenzio? Mi fa anche un po' schifo l'idea che lei parli alla radio di questa roba. Ma ogni tanto pure dentro il camion ti fa le pugnette, Saverio? Beh, perché? Ma la cosa più bella è, scusa, ma tutti quanti se le fanno. Ma che scena glacciante. Ma quanti anni ha, scusi? Ma lei quanti anni ha? dammi del tuo parere, ma non mi dà. Quanti anni hai? No, quanti anni? Vuole... No, io per rispetto do del lei. Quanti anni ha lei? Quanti anni ha lei? Io voglio parlare con Cruciani, voglio no, parlare. Ma ti sta... perché... sì, ma io voglio parlare con lei. Quanti anni ha lei che dice non che fa le pugnette? Non mi devi dare del lei, se vuoi parlare ma con qua... me non mi dà del lei. Vabbè, quanti anni hai? Ma io lo faccio per educazione e rispetto nei suoi confronti. Ma che educazione? Quanti anni ha? Sembra alla voce di Feltri, sembra un settantenne. Quanti anni ha? Ieri sera ti ha messo sull'attente il sardo, il cavaliere sardo. No, il cavaliere ma sardo cavaliere? Non ha messo sull'attente, ci mancava pure il cavaliere, ci mancava. Sì, ti ha messo sull'attente, ti ha detto un paio d'articoli che tu non sapevi nemmeno quello che dice. Quello è il signor cavaliere. Lo zoo è affollato Seccia, anche oggi. Era il signor Seccia. Secci. Scusa, sì, quello è un signore. Ma non è un signore. Quello non beh, è un signore. Un signore no. Definire quello un signore. Scusami, Saverio, ma, però la cosa fondamentale è questa. Mi sembra di arrivare a una conclusione con te. Cioè, sì, tu sei uno fedele che ogni tanto si permette di fare qualche pugnetta, di farsi qualche pugnetta. Non ho capito se le fai dentro il camion o. E ti, immagino di sì, no? Qualche volta capita anche mentre guidi, perché qualcuno sostiene che tiene svegli la pugnetta, vero o no? Ma dai, ma non scherziamo, ma che fate? La fai mentre cammini col cane? Ma che è un pervertito, dai, ma non... No, questo no. Pervertite, bravo, dai, esatto. Dai, so. Però ogni tanto ti fermi a qualche area di servizio e via. E mi faccio una prugnetta, mi faccio crociare. Sempre la prugnetta. Va benissimo, ma io ma sono la prugna con te. Sarà una prugna, un frutto, quindi. Ma lascia perdere, io sono con lui, con Saverio. Sono dalla sua parte, sono con lui. Sì, tu perché basta Cruciano che... è come me, viva la sincerità. Parenze, ma tu ti hai fatto mai una prugnetta? Ma che bella compagnia. Ma parla sincera. Ma che bel gruppo, ma che bella amicizia. Ti sta chiedendo, ti sei mai fatto una prugnetta? Immagino la di sì. Prugna, io la prugna quando è stagione ve la no, mangio, ma non come sviare, la prugnetta? Non lo pigliare per la il prugna, culo. Mi ha chiesto se la prugna la faccio, la prugna ma la mangio pugnetta, io la prugna. L'hai capito, no? Parenzo, tu sei antipatico a tutte perché non sei come Cruciani. Cruciani è troppo bravo. Cruciani è uno sincero. Di voi, no? Perché ma è sincero, è uno di voi. È uno di voi, Cruciani. Non dire che non ti fai le prugnette. Ma non dire che non ti fai le prugnette. Le prugne, la torta con le prugne. Sei una vergogna, sei. Un plumcake con le prugne, meraviglioso. Non è normale. No, non è normale. Hai ragione, Saverio. Non sei normale. Quanti anni hai, Saverio? Non è ancora detto. È normale, io non sono normale. Quante volte che lo dico, Cruciani? C'ha la voce di Feltri che ha 70 e passa anni, ne ha 53. Ha messo male queste prugnette. E fatti, guardate. Sei devastato, hai 50 anni e ne dimostri 80. Scusami, quante Feltri c'è un abisso, dai, lascia quanti... perdere. Scusami, Saverio, quante ci sono ancora quelle famose aree di servizio dove ci sono gli omosessuali che vengono lì a bussare, eccetera, eccetera, vecchia. Ma sì, ci stanno là i parcheggi perché ti vengono a bussare, tutto, tu non... ci stanno tutti. Cruciati. Tu non li sopporti gli omosessuali, Froci? Ma sopporti. Non li sopporti, io la notte cammino, non mi fermo. Ah, non ti fermi proprio. Però per poi. Magari c'è qualcuno che ti passa, che ti fa gli stop, però se ci stanno vuol dire che qualcuno ci va. Non c'è dubbio, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Anche di camionisti gay, diciamo, sai che bellissimi camionisti gay, eccezionale, camionisti gay. Ciao Saverio. Ciao Saverio. Buonasera, grazie Cruciani, ciao. La polizia su quegli scooter. Eccoci qui, Massimiliano! Via la polizia, via la polizia! Ma che dice? Ma non può dire una cosa che siamo andati a vedere. Noi siamo contro la polizia, contro lo Stato, contro i carabinieri, contro la Guardia di Finanza. Ma che dice? Siamo contro tutti. Ma scusa. Ma perché dice per così? Ma perché tu stai... quella libertà, che vuol ci dire? Facciamo scusa. La legge fai da te, legge fai da te. Ma scusa, ma che è la legge fai da te? Ma stiamo scherzando. Ci difendiamo da soli, legge fai da te. C'è Master Brasile. Ma quindi lei non ha letto Hobbes? Homo homini lupus. Io me lo guardo Fox su Sky. No, Fox Hobbes, il filosofo. Hobbes. Sto vedendo The Walking Dead su Fox, che è fantastico. Hobbes. Homo homini lupus, diceva questo grande filosofo. Cioè. Io conosco Samantha Fox era una grandissima. Però ti voglio dire homini lupus, sì. Homo homini lupus, cioè ogni uomo, diceva Hobbes, è un lupo per un altro uomo. Ma chi si fa le pippe? Io... Scusa. Ogni uomo si fa le pippe a vicenda. Scusami. Come stai, tu? Come stai? T'ha chiesto bene, caro fratellino, bene. Scusa, ti vedo però sempre più ignorante, sempre ma più... Ma perché devi dire sempre più ignorante? Ho letto da qualche parte che hai cominciato a leggere dei libri. Che cos'era quel libro che hai detto che stavi a leggere? Ho letto i fratelli Gosilla, come si chiamano? Karamazov. Uno giocava sulla fascia con la Sampdoria e uno sul sulla fascia con l'Udinese, erano tedeschi, eh? Ma che dice? Non è quello. Ha letto un'altra cosa. Quelli, no, caro, no. No, scusami, no. Presidente, però secondo te sì, i fratelli Caramazzo non erano quelli, però ti dico, però non erano esattamente. Ci ho fatto il fuoco a Capodanno, ci ho fatto il fuoco con la brace. Ma col libro. Ma come si fa? Porca miseria. Perché ruppiamo la linea, papà Renzo. Avevo finita la diavolina, ci ho dovuto mettere i fratelli Caramazzo. Scusami, Brasile. Ma è un libro monumentale, Brasile, quando senti queste, quando vedi in televisione, o vedi soprattutto sull'internet, tu la televisione, sì, che cazzo te ne frega, su Instagram, queste cose, vai, immagini di polizia che ferma le persone, no? Vabbè, eccetera. Normale, tu da che parte stai, naturalmente? No, cioè, no, ascolta, Giuseppe, ho visto il video di quel celebro leso che ha preso per il culo. No, ma lì ha preso per il culo, a parte le forze dell'ordine, va bene. E hai goduto, però, hai goduto davanti a che i carabinieri. No, non ho goduto, perché c'aveva una faccia da cazzo quello, Giuseppe, te dica la verità. Sì, quel piastrellista, diciamo, no? Il piastrellista, quello ci sarebbe da tagliare in faccia una piastrella, capito? Perché ha preso per il culo gli infermieri, no, dici ho preso tu per il culo, così digli un'altra cosa, non dirgli che stai facendo, che stai salvando le video, ma cioè, capito, io ho rosicato per quello, Giuseppe. No, ma giusto, ma è giusto che tu abbia rosicato, cioè è normale che sei incazzato, sono la piastrellata, però se tu fossi stato preso per il culo da quello, che avresti fatto? Saresti andato a cercare? No, faccia la gara, però io ci sarei caduto anch'io, però Tu dici? Perché, sì, ci sarei caduto. Cioè, tu dici, sono infermiere, stai là, alla fine c'è cazzo. Ma certamente, quelli poracci ci hanno creduto, Giuseppe. Non c'è dubbio. Senti, ma come sta passando? L'altra volta ci hai raccontato una decina di giorni fa, caro brasiliano, che stai passando comunque la tua quarantena, per modo di dire, perché esci, scopi ogni tanto, eccetera. Ma come vanno le chiavate quotidiane? Cioè, non è che ogni giorno vai a scopare con qualcuno, no? No, io ho mia moglie a casa, amico mio, io ormai sono finito per quanto riguarda quello, Giuseppe. Ma che stai di? Altra volta hai detto uscivi e te ne vai a fare la chiavata, non so dove. Che stai? No, ma qualche mese fa, no, ormai no, ormai sono finito. No, fidanzato, ma persona ormai seria. Ormai sono terminato. Bravo. Ma che cazzo stai a dire? Ormai stai lì a casa? Pippe a gogo, o altrimenti Alicetta mia. O Pippe o Alicetta. O Pippe poi domani. Lei poi vedo che segue con anche una certa passione domani l'evento che ci sarà a Bruxelles, con l'incontro tra i capi di Stato e di Governo, insomma, un momento c'era importante. La finale di Coppa dei Campioni a Bruxelles, che c'era? Sai che sarebbe? Tu andresti ospite, scusami, brasiliana, tu andresti ospite della signora Gruber, per esempio, una sera. La signora Lilli? Sì, la signora Lilli, ci andresti o no? Non lo invita, non lo invita. Perché no? Perché no? A far sentire come dire l'anima del popolo, cioè la gente del popolo. Ma come si permette? Ma no, ma figurati, ma perché? Ma perché dovrebbe invitare un signore così? Non avrebbe nessun senso, scusa. Io diciamo che posso essere invitato, ero stato invitato a quello della mattina, non sono andato perché poi c'è stata la pandemia, quello di Tele Monte Carlo là, che c'è stata la tessera Tele Monte Carlo a Omnibus, alla tessera, dove si chiama? Eri stato invitato a fa che, scusa, Brasiliano? A Omnibus, no, in un programma con Paolo, no? Poi è successa la pandemia e non ci sono andato. Ah, pure con Paolo dovevi andare. Signora Marta qualcosa lì, che cazzo, come si chiama? Dalla Merlino, ma che Marta? Mirta Merlino, all'aria. Merlino, bravo. Merlino. Mirta Merlino. Ah, no, è l'aria che tira. Senti, ma la cura ormai a Roma non c'è un cazzo, ma la cura brasiliano contro il coronavirus qual è? Tu l'altra volta hai detto che a te non te ne frega un cazzo del coronavirus. No, ma io ancora oggi se dovessi scendere per una fa questa senza niente, senza guanti, senza mascherina. Ancora. Ti frega un cazzo qui a Giuseppe. Ma sì, ho capito. Non mi ferma nei guardi e dico vai con Dio, vai, passi lunghi e ben distesi. Vai, ho amico, capito, vai. Però scusa, ti sarà successo. Ma le guardie, non si chiamano le guardie, si chiamano. Come si chiamano? Gli uomini, le guardie. Gli uomini, cioè, dello Stato, la polizia, i carabinieri. Gli uomini. Io, l'uomo dello Stato, sono io, fratelli. Quali uomini dello Stato? Noi siamo io, te, Parenzo, Giuseppe, siamo uomini dello Stato, ricordati, che pagamo le tasse. Loro sono nostri dipendenti. quello... la polizia indipendente del Brasile. Scusa, ma tu lo fai l'applicazione del governo, quella là, Immuni, te la farai o non te la farai? Cioè, sì, ti metterai per essere tracciato, esatto. Te la farai o no? Ma questa... io ho applicazioni, Giuseppe, io sono più su Twitch, io scarico tutte queste applicazioni qua. Quindi... Immuni, che è? No, l'applicazione, quella che il governo vuole fare per tracciare se sei immune, se sei contagiato, se uno che sta... Cioè... Se ce la scarica e puntano addosso a me, esce 8 di tutto. Ma mi mette nel telefonino contro, gli schioppa il telefonino, altro che immuni. Devono fare l'applicazione Immuni in Brasile, se dico, ma la puntano addosso e schioppa il telefonino. Senti, tu sai chi sono questi, se ti faccio dei nomi, sai chi sono, che ne so, Ricciardi, sai chi è Ricciardi, per esempio? Ricciardi no? Gioca con la Roma Primavera, non sto scherzando, Alessio Ricciardi. Poi Burioni, sai chi è Burioni? Burioni, professor Burioni. Poi... No, ma come si permette? Mark Rutte. No, veramente, questo Rutte era in nazionale tedesca nel 74. E il professor Galli, sai chi è Galli? Professor Galli era il portiere del Milan, dello scudetto, mi sembra. Niente. Merkel, Angela Merkel. Angela Merkel. Qua mezza scaglia tedesca. Allora, ti voglio far conoscere. La Merkel pare zio Mario, pare. Ti voglio far conoscere. Rispetto per un capo di posso stato. Posso dirti che non è adatto, non è adatto alla Gruber. Ancora non lo vedo pronto per la Gruber. No. Ma nulla, è adatto a nulla, secondo me. A nulla. Tu sai a che sono adatto. A cavallo curioso, tu lo sai a che sono adatto. Tu sei un delfino curioso, tu lo sai bene a che sono adatto. Allora, voglio fare un incontro tra il brasiliano Massimiliano Minocci, che ormai è diventato, come dire, di casa qui alla Zanzara. Grande personaggio, lo abbraccio tantissimo, il passato suo lo conosciamo, chi se ne frega. Pare avviato con un signore che si chiama Maurizio Ruggiero. Maurizio Ruggiero, che se lo aspetta. Cattolico tradizionalista. Maurizio, come stai? Sì, ciao, bene, abbastanza bene. Nonostante il coronavirus, tutti siamo bene. È un cattolico tradizionalista, caro Brasile. Bravo, un cattolico bravo, tradizionalista. Bravo. Devi sapere, uomo di grande spiritualità, Ruggero, al contrario del brasiliano, naturalmente. Devi sapere, caro Brasile, che Ruggero non si è mai fatto una pippa in vita sua, una sega in vita sua. Sì, vabbè, adesso c'è questo barzelletto di presentazione di Cruciani nei riguardi di questa persona. Io ti chiedo scusa, brasiliano, Ma se questi ti presentano in questa maniera qua, dove ma siccome ma uno che si è mai fatto una pippa in vita sua, ma può parlare con me? Ma che cazzo stai? Però adesso che io non so adesso diciamo, da quale spelonca il Tiburtino o il Prenestino. No, io da Pietralata, amico mio, non ti permettere sciacqua della bocca, Pietralata, sciacqua di la bocca prima di nominarla. Basta fare una pippa e poi può riparlare con me, fratelli, va. Se parliamo dobbiamo fare un discorso appunto tipo telegiornale, perché adesso ho sentito soltanto il linguaggio del telegiornale, sostanzialmente la stessa impressione del telegiornale, come mai, no? Infatti molto gradita nel resto d'Italia, no? Scusami Ruggero, io ti volevo fare una domanda, tu da tradizionalista cattolico, tu pensi che questo virus sia stato un po' una vendetta di Dio per i peccati? Mi sembra di capire che tu l'hai un po' interpretata così, per i peccati. Non è che interpreto io, c'è una linea della Chiesa che è sempre stata, che è quella di dire che tutto ciò che non è voluto da noi è o voluto o permesso da Dio. Cioè Dio è arrabbiato per qualche cosa e dunque ci ha scatenato questo coronavirus, spiegami. Oddio, essere onesti, il mondo moderno ha fatto talmente tanti affronti al Padre Eterno che altro che il coronavirus. Cioè tu stai sostenendo che questo coronavirus è frutto dei peccati dell'uomo. Dunque, tutti gli eventi che ci sono sono o permessi o sono voluti da Dio. Sicuramente questo si lega... Beh, questa è una legge... Che il coronavirus si lega a qualche peccato, che ne so, l'omosessualità, per esempio, il dilagare dell'omosessualità, che ne so. A essere onesti, è una pasticca da nulla rispetto ai crimini che ha fatto il mondo moderno. Perché se si ha un parallelo, quando ci fu la famosa epidemia della spagnola, ci furono 100 milioni di morti, allora... sicuramente il numero di peccati era largamente inferiore a quello di adesso. Quello di adesso, figuriamoci. Quindi diciamo che il Padre Eterno manda un avviso. Questo è un avviso del Padre Eterno. Per esempio sul fatto che esista la sodomia, no? Che esista questo dilagare della sodomia, può essere un'interpretazione. La sodomia, le convivenze, le relazioni extraconiugali. Il nostro amico qua, uscito appunto dalla caverna, Persino lui giustamente ci diceva, sì, ci diceva che ammazza di sciocco, ammazza di sciocco. Vabbè, dai. Allora no, ammazza di farti la pipa col dito. Aspetta, calma. Col dito? Sto parlando anche bene di te. Non c'è bisogno che ti scateni i polifemi. Allora, diciamo, lì sto dicendo che lui spesso ha detto che vuole restare fedele a sua moglie, no? Ma non è, tanto, non è tanto fedele, però non è tanto. Però insomma, ma l'ha dichiarato. Io credo sì, però tromba no? Con la sua fidanzata fuori dal matrimonio. Dunque, questo è Cruciani che naturalmente peggiora tutto. Arriva Cruciani, no, e ma è la realtà, anche di fronte a un'affermazione buona del nostro brasiliano, no, addio Brasile che sia, a peggiorarlo. Ma non è peggiorarlo, è la realtà, è la realtà. Cioè, sei sposato. La realtà è quella che se non ti metti a posto. Ma lui vive nel peccato. Il coronavirus arriva. Ma io sono il peccato fatto persona, capito che ti voglio dire? Io vivo, mangio, bevo e tifo Roma, capito come? Vedi, caro Brasile, il problema non è quello di essere peccatori, perché tutti su questa terra siamo quello che siamo. Il problema vero è quello di convertirsi. Ti dovresti convertire. Come ti chiami, amico mio, scusami. Ruggero, Maurizio Ruggero. Ruggero, caro, allora ascolta Brasiliano, Ruggero. Allora io ti dico una cosa, in questa situazione dove davanti allo specchio ti guardi il tuo amico caro Pisello, non c'è cosa migliore che te lo prenda in mano da solo, ti metti un dito in culo e ti fai una pipa. Questo però è una roba. Prendi il tuo membro, ci vai te nella tua caverna e fai quello che vuoi, ma non dare consigli, non dare consigli spirituali. Cioè, limitati a Montemario e al Tiburtino Terzo, ma non dare consigli al di fuori, per piacere. No, però lui sta dicendo, scusami. Ci ho provato a farti evolvere, caro Ruggero Rissitelli, ci ho provato a farti evolvere, capito? Però scusami, la questione è questa, non si vuole convertire. Tu di aiuto, non io. Ma non si vuole convertire, Ruggero, il brasiliano non si vuole convertire. Ma infatti lui non deve convertire, perché lui è... questo tipo di consigli è per depravare, non per convertire. Sono io che devo cercare di convertire, sono i cattolici che devono cercare di aiutare come le persone, cerca di convertire, cerca di convertire. Brasiliano dice l'inferno, no? Non c'è l'inferno, ma non c'è l'inferno, l'inferno, no, non no, è stato abolito, non lo so, ma io non ci credo all'inferno, per cui che qualcosa vuole, ma io neanche. Allora, la stessa logica dei cretini che mettono il tricolore sui balconi. Siccome c'è il virus, mettiamo il tricolore, che così il virus... Scusami, brasiliano, tu credi nell'inferno, no? Brasiliano, no. Credi nell'esistenza... Ma io nell'inferno, Giuseppe, nell'inferno già ci siamo, quindi voglio dire, l'inferno è la vita reale, questo è un inferno, Giuseppe. Io voglio dire, a questo Ruggero addirittura Papa Renzo si è fatto una pipa, quindi... Voglio dire, no, adesso questo cosa c'è? Papa Renzo, cosa, perché mi chiama in causa? Scusi, aspetta, quello che faccio io, signore. Per fare capire al signor Ruggero che anche lei, dottor Papa Renzo, che è una persona molto seria, sì, giusto, molto seria, ogni tanto si masturba. Ogni tanto si masturba. Lei, cosa mi... una bella pipa ogni tanto, è quello che voglio ma fare. Ma adesso fare io non ne parlerei mai alla radio. Bisogna salvarsi l'anima. Uno dei peccati, quello, il peccato che manda più gente all'inferno, è quello sul sesto comandamento, cioè la violazione del comandamento non commetterà impuri. Bisogna stare attenti a queste robe qua, perché se vogliamo scherzare, scherziamo. Ma il fatto capito, che ma noi siamo già dire... condannati già, Brasile. No, non siete condannati, perché se campate ancora, il padre Ateno sta ancora aspettando, che è ancora paziente. Ah, capito, voi, capito. Ma non è a sempre, non è a sempre. Cielo, non è che sono morto io, devi stare tranquillo, a me mi vuole proprio il padre Eterno, amico mio, stai sereno. Giuseppe, io più che altro organizzerei una cena appena possiamo con il signor Ruggero, io, te e lui. Sì. Almeno lo facciamo convertire, che dici te? Lo facciamo convertire. Se volete depravare, tanto c'è pieno il mondo di persone che vogliono corrompere, uno in più, uno in meno. Scusami, Ruggero, una cosa, ma per te le chiese vanno aperte, vanno tenute aperte, bisogna professare, bisogna stare lì a fare le messe, cioè, visto che sono intervenuti. Ho visto che c'è stato lo scandalo dei carabinieri che hanno andato a rompere la messa nuova, per carità, quindi praticamente i farlocchi della linea Vaticano secondista, però che è uno scandalo una cosa di questo tipo, perché mai come in quest'epoca in cui esiste un'epidemia, per quanto non grossissima, non paragonabile alla peste nera o roba di questo tipo, ci vuole l'elemento di carattere spirituale. Cioè, ho capito, ma uno prega a casa e chi se ne frega, chi crede prega a casa e va ma il punto pubblico a Dio si fa con la messa, però si apre ma ho capito, ma le cose evolvono. Cazzo della messa, ciao Brasile, grazie a tutti, ciao Ruggero. La Zanzara. Cin cin cin cin, ricoprimi di baci. Cin cin cin cin, assaggia e poi mi dici. Resistere, lo dico non in quel caso ai magistrati o che non so, non so a chi, la società civile all'epoca si rivolgeva a Borrelli, lo dico a tutti i puttanieri che non devono farsi beccare e farsi multare perché non ne possono più e vanno ad incontrare puttane che poi non so dove possano trovarle, evidentemente prendono degli appuntamenti clandestini, e dunque resistere al testosterone, resistere alla voglia, resistere pippe, si potrebbe aggiungere pippe di ferrariana memoria. Pippe. Vedi che tutto coincide. Pippe, molte pippe. Ecco, resistere. Borrelli e pippe. Si riferiva al fatto che non bisogna fornicare senza riprodurre, signor Ferrara, ti ricordi? Ah, era vero. Sì, Roberto sì. Da chi c'era? Roberto da Macerata, vai. Roberto da Macerata. All'epoca della sua lista, di quando faceva la lista. Ecco, tu te lo sei dimenticato perché. Certo. Perché te lo sei dimenticato, Roberto da Macerata. Io lo abbraccio lasciamo sempre. Perdere, lo, lasciamo perdere. Fortissimo, lasciamo. Giuliano. Dimmi, lo Roberto, amo, dimmi. Lo amo. Dimmi. Niente, dimmi. Posso? Dimmi. Niente, ti volevo solo dire una cosa. È una vita che seguo la trasmissione. Sì. Quindi ho notato una differenza, che mentre prima gestivi benissimo la tua trasmissione, tu a quello il tuo sagrestano che c'hai al fianco. Non mi pare molto sagrestano, però. Beh, sì, è un sagrestano, è un involuto, è uno che è ripetitivo, logorroico, dice sempre le stesse cose, è palloso, non veni più perché hai votato. Ho votato per sto cazzo, che gliene frega a lui. Dico, possibile che tu non riesci a metterlo a tacere? Riuscivi sempre, ti intromette su tutto, non c'entra un cazzo, la gente non si vuole parlare e lui si intromette. Qui telefona, si intromette sulla tua voce, ma che cazzo sta a fare? Perché non lo mandi via? Non lo può vedere nessuno. Questo è vero. È vero, una bella analisi, però è una drammatica analisi, ma vera. Questo sì. Qui la gente più non ci vuole parlare, più non ci vuole parlare. Sulle trasmissioni in televisione fare figure di merda perché si vede che è un incompetente e non capisce niente di niente. Io non so come cazzo ha fatto. Mi ricordi il nome di questo? Questo. Mi ricordi il nome, Roberto, di questo analfabeta? Come si chiama? Roberto l'analfabeta. Che vuol sapere? Io parlo con te, parlo con lui, che vuol sapere? Vedi, Roberto, ti posso dire, mi intrometto per dirti, ma quanto coglioncione sei, Roberto? Ma te lo dico con l'affetto che ho nel cuore. Ma quanto coglioncione sei? Ma tu sei un coglioncione. Roberto, sei un coglioncione. Sei un coglioncione. Quando stai perché hai telefonato alla radio, Roberto? Fai sempre figure di merda. Non sai quello che Roberto cazzo Coglioncione, dici. Perché hai chiamato alla radio? Perché? Ma non ti vergogno. Ma perché hai chiamato? Ah, però ascolti. Allora non mi rompere i coglioni, voglio parlare con Cruciani. Allora mi segui, però. Mi segui e fai fare ascolto a quelle trasmissioni in cui ci sono. Bravo, senti Coglioncione, ti volevo dire questo, ma qual è stata la tua serenità d'infanzia quando eri un bambino, un fanciullo? Cos'è che ti ha traumatizzato o cos'è che ti ha reso felice, viceversa, Cruciani, Coglioncione? Cruciani, vedi che si intromette sempre sui discorsi, voglio parlare con te, vedi. Ma che mi vuoi dire, amico mio? Che mi vuoi dire? Tu sei un cretino, Cruciani, perché io voglio parlare con te, questo si intromette. Ma non mi dici niente, non mi stai dicendo niente, però, Roberto. Ti sto dicendo che devi tornare alle origini. Ma quale origini? Alle origini del mondo. L'unica cosa che mi interessa è l'origine del mondo di Courbet, come cazzo si chiama quel quadro? Raffigurante una delle poche cose che contano nella vita, dai. Non far finta di non capire. Quando questi la conosci l'origine del mondo? La conosci l'origine del mondo? Roberto, no, parla con me. Ma lo sai che cos'è l'origine del mondo? La sai? Ma vaffanculo pure tu, stronzo. Allora sei proprio un imbecille. Quando gli dicevi giù il microfono, quello succede ancora ogni tanto. Un imbecille come questo. Scusami, Roberto, sai che cos'è l'origine del mondo? Sai che cos'è l'origine del mondo? La sai o non lo sai? Ma non mi rompere i coglioni. È un quadro. Lo sai che cos'è l'origine del mondo? No, qual è l'origine della tua idiozia? Qual è invece l'origine della tua idiozia? Quell'imbecille che c'hai a fianco, sta zitto perché io voglio parlare con te. Scusami, ma il romanzo L'idiota lo fecero su di lui? Il romanzo L'idiota lo fecero su di lui? Hai presente il romanzo L'idiota? Il romanzo L'idiota lo costruirono su di te? No, non credo. Ma perché l'idiota non me lo dice? Quattro occhi, imbecille. Ma perché ha quattro occhi? No, che ma c'è? Dico, il romanzo no, l'idiota. Perché se c'è coraggio, perché ma rispondigli, rispondi. Ma l'hai letto il romanzo l'idiota o no? L'hai ma letto sei l'idiota? Un imbu... Ma... La tua biografia, autobiografia. Però io ti chiedo, scusa, siccome vuoi parlare con me, Roberto, io ti ho chiesto una cosa. Sai che cos'è lo sai che cos'è l'origine del mondo? Che vuoi sapere? Dimmi. L'origine del mondo, lo sai che cos'è? Che cos'è? Che cos'è l'origine? Un quadro, l'origine del mondo, sai che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Sai io cosa sono rappresenta? Sai che cosa rappresenta? No, ma io ma non è che ti sto dicendo per improverarti. Sai che cosa rappresenta l'origine del mondo? No. La figa. Ah, non lo dire a me, io sono per sono un venerato, una, c'ho una venerazione per la figa. Sei un miracolato, sei un miracolato. Questo, tu, non venerato, un miracolato una, sei. Ma vedi, tu sei un miracolato, un miracolato. Questo è il numero uno, Roberto Damasceno è il numero uno. Cruciani, ascoltami. Non ti vengono dei dubbi che sta gente dice voglio parlare solo con Cruciani? Ma ti stai rendendo conto che stiamo parlando io e te, questo ti metti in mezzo perché non se lo caga sì, ma tu Cruciani ti stai rendendo parlare. Conto che questa vuole? Gente qua dice voglio parlare solo con Cruciani? Che te ne stai rendendo conto questo? Cruciani? Io mi preoccuperei. È un uomo arcaico. Arcaico, bigotto, sì. Se parli di figa si scandalizza di figa, la figa è la meglio cosa che c'è, è l'unico piacere a costo zero, è l'unico piacere costo a costo zero, no. Ma questo non è ma a costo zero, scupata, ma vedi che sei anche, ma vedi ma che sei anche un involuto, ma come a costo zero? Mai. Se c'è una cosa che in generale comunque ha un costo è quella. Cruciale, ciao Roberto, ti abbraccio, non... ti abbraccio ma fortissimo. Che, ma che mi abbracci? Ma mando a fanculo. Questo dopo non ti è richiamo, casomai, dopo ti richiamo che mi fai divertire. Ma non è di razza taurina questo, questo non è di razza taurina. Mauro da Messina, vai Mauro. Eppure qualche testa di cazzo eccolo che qua. Sostiene queste teste di minchia del governo c'è ancora. Questa banda di dilettanti e di ma a Messina sono tutti così come il sindaco uguale. Marenzo, ma è una concentrazione una di imbecilli rara a Messina, ma non è possibile. Ma che immagine diamo di Messina? Ma che immagine diamo di Messina? Che immagine diamo di Messina? Che immagine diamo? Una città straordinaria. Si sono presi le mascherine questi conigli a Montecitorio, coglione! E non gliele hanno date ai dottori e i posti di rianimazione. Quello, è, di quello era Palazzo Chigi. Quello era Palazzo Chigi. Calmiamoci un secondo. Calmiamoci un secondo. Però calmiamoci un secondo. La cosa che mi dispiace. E poi c'è il discorso. No, la cosa che mi dispiace è che purtroppo se ne vanno con Mattarella. Mattarella non si tocca. Se ne vanno sempre i migliori e altri restano purtroppo. Cosa dici? No, voglio dire, purtroppo il Covid si è portato via i migliori e qualcuno invece rimane. Nessun riferimento evidente, ovviamente nessun riferimento no, a fermo, Messina Mattarella. Dopodiché il danno che tu stai facendo all'Italia sì, caro Cruciani è quello di tra i tanti di rappresentare Messina come un covo di idioti, cosa che non è, perché se gli unici due di Messina che tu interpelli sono il suo autorevolissimo sindaco e questo suo concittadino l'immagine di quella città ne viene anche, anche il nome Mauro allora, anche il nome Mauro in generale. Sì, no, ma anche... no, il fatto che sia Mauro da Messina, poi Cateno De Luca, sindaco di Messina, Mauro, che dai dici? Un'immagine devastante fatti della città. Fatti crescere il cazzo! Fatti crescere che, il cazzo! Che Mauro, che dici? E che lo insulta? Ma che trasmissione questi cazzi di governo! Appoggia questo cazzo di governo che prima di pubblicare i decreti li dicono! Pubblicare i decreti, ma questo è bello. La gente, sono, i decreti, questi sono i brevi. Questi sono. Ma io gli ho detto al sindaco qua a Messina: non ti preoccupare, che ecco. Borghese non lo sa che c'è il virus a Messina. Lei ancora gli deve quindi, arrivare. A lui piace il sindaco, immagino. Quindi. Ancora non gli hanno detto alla Lamorgese che qua ci sono, qua c'è il virus. Quando arriverà a saperlo, chiuderà come ha chiuso la Sardegna. Mauro da Messina, ma come non è colpa sua. Il Moffatti gli ha riferito qualcosa, ma non gliel'ha detto. Ora, caro testa di minchia, ma sono tutti così a Messina, per fare crescere il cazzo in testa, così cresce un poco. A quelle veste di cazzo degli amici tuoi di negri di merda, figli di non rompere il cazzo, ma perché? Figli di non rompere il cazzo, ma perché? Di andare a sbarcare da quella culo di merda della veneca di merda che se ne manda qua. Ma per... oppure, un attimo. Oppure parla con la nipote secondo, di Tupac Amon, la presidente della BCE, che quando io avevo 6 anni Cristo era già vecchia. Ma tu ti rendi conto dell'immagine compromessa definitivamente della città? Cazzo, io non verrei. Io è che so che non sono tutti così, ma io avrei paura andare a Messina.

Marco, considerato dal codice civile penale. I messaggi di questa trasmissione vanno fermati perché ledono la morale pubblica. Fermi tutti, fermi tutti.